Buongiorno Chiesa, che bello stare insieme a voi. E non sto dando i numeri, come dicono di solito, di me, perché io vi vedo, io lo so. Allora lì, Stefano e Angelo, Pasquale e Teresa, Pasquale e Graziella, scusate, Vito e Nunzia. Vedo anche me stesso là con Sofia sedermi verso il centro. Insomma, è così. Se si poteva fare una panoramica, così ognuno riconosceva la sua sedia e che è tutto uguale a come prima. Perciò, quando ritorniamo da qui a breve, troveremo le nostre abitudini, troveremo il nostro posto, ogni cosa. Perciò, ben trovati. È bello stare insieme. Logicamente quel che manca è la risposta, vedere i vostri sorrisi, vedere la vostra disattenzione, questo manca, però siamo insieme. Bene, questa mattina andiamo intorno a un soggetto che tanto di aiuto è continuamente nella mia vita. Hai qualcuno che fa il tifo per te? Se stai facendo qualcosa o stai per dire qualcosa e c'è qualcuno che fa il tifo per te, che simpatizza per te, è incredibile il toccasano di questo tifo. Perché? Perché è come che ricevi una nuova forza, sei più capace di andare avanti, hai più forza per fare quello che stai per realizzare, e credo che tutti quanti noi lo abbiamo sperimentato. Io voglio raccontare brevemente, anche per sdrammatizzare un aneddoto che ho vissuto quando ero un ragazzino. Quando ero un ragazzino, dove bisognava formare un coro nell'oratorio, il gruppo che avevamo. E quindi l'organista ci ha riuniti tutti i ragazzini e stavamo lì e lui ci ha indicato, ci ha mostrato e fatto vedere quello che dovevamo fare, che non era niente di speciale, era dire solo una vocale con determinate tonalità. E stavamo lì tutti impettiti per guardare il dirigente e fare bene. Allora lui inizia e dà il via. E noi incominciamo. Però c'era un fatto, che questo organista guardava proprio a me. E sai una cosa? Mi incitava con le espressioni del volto, con gli occhi, con qualche smorfia, e io mi sentivo talmente impettorito che facevo i miei vocalizzi, che a un certo punto l'organista, che era un organista, ferma e dice: tu siediti là. Ed io sono cresciuto 3 volte tanto. Perché? Perché pensavo: io sono il top, sono già arrivato. Se non fosse per un semplice fatto, se non fosse stato per un semplice fatto che l'organista era un po' strabico e che io sono sempre stato stonato. Quindi, però, vedi, ricordi queste cose, però la cosa più grande, più forte che era, non dimentichi mai il sentimento, la sensazione di quell'incitamento, di quel tifo, di quel stimolo che ricevevi, che tu ti sentivi crescere. Questo è avere qualcuno che fa il tifo per te. E tu, io, abbiamo qualcuno che fa il tifo per noi, ma letteralmente in una maniera incredibile. Voglio leggere un passo della parola di Dio che è così sorprendente, che parla di Gesù verso noi, ed è incredibile quello che possiamo vivere proprio guardando e rispecchiandoci in Lui. Leggo dalla lettera agli Ebrei, il capitolo 4, dal verso 14 al verso 16. E qui c'è scritto: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa. Senza commettere peccato, poi è aggiunto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Al momento opportuno. Non è incredibile questo passo? Per me sì, io lo vivo così, perciò lo trasmetto. È sorprendente che il Signore Gesù simpatizza per me e che fa il tifo per me. Quando? Non quando tutto va bene, non quando sono allegro e gioioso, ma proprio nei miei momenti difficili, nei momenti di tentazione, nei momenti di grande difficoltà. Allora il Signore Gesù simpatizza per me, fa il tifo per me. E perché? Perché anche lui ha vissuto le stesse cose e sa i sentimenti che vivono dentro di me e che si muovono dentro di me e quello che causa nei miei pensieri e nel mio modo di agire. E perciò lui fa il tifo per me. Non, certamente non come quando, ecco, dobbiamo fare dei paragoni per intenderci, non è il tifo di come quando si va allo stadio, si sta vicino alla televisione, davanti alla televisione e guardare una partita e vedere giocare. Io so giocare meglio di quello e lui non ha mancato il gol, io l'avrei saputo fare, e infierisco pure dicendo: ma come, dovevi tirare così, dovevi fare in quella maniera. Beh, questo non credo che sia proprio un tifo che incoraggia e che stimola. Io proprio per mostrarvi quello che ho vissuto anche nelle mie fasi di vita e che continuo a vivere, voglio fare alcuni esempi della vita di Gesù, di come lui ha vissuto le stesse situazioni che ho vissuto io e come le ha risolte, o meglio, come le ha elaborato e ha ricavato da quelle situazioni vittoria, pace, gioia proprio nella sua vita. Sono tre episodi che andremo a vedere. Il primo è scritto in Matteo al capitolo 13, dal verso 53 fino al verso 58. Matteo capitolo 13. Ecco, sì. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nelle loro sinagoghe, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi, ascoltate adesso, non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro, una frase molto famosa: un profeta non è disprezzato che nella sua patria, è in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non vince molte opere potenti. In pratica, che cosa ha vissuto Gesù? Che poi, tradotto il tutto, queste parole, semplicemente è: ma che vuole questo? Ma chi è questo? Questo stavano vivendo i compatrioti, i paesani. Sai, poi il paese è piccolo, cioè da dove veniva Gesù, il paese era piccolo, conoscono tutto di tutti e ogni cosa, e quindi conoscevano anche Gesù, di Gesù sapevano vita, morte, miracoli di lui, e certamente dicevano: ma che vuole? Quante volte noi siamo stati sminuiti, disprezzati, proprio quando stai facendo una cosa buona. È capitato anche a te che proprio quelli più vicini, che proprio i tuoi amici, i tuoi parenti o quant'altro, fai una cosa, la fai di bene, ma vieni sminuito e disprezzato. Non ha conseguenze? Certo che ha conseguenze. Quando vivi una cosa del genere, si causa inevitabilmente un trauma dentro di noi. Può essere anche una piccola ferita, ma te ne accorgi quando stai per iniziare qualcos'altro, quando stai per dire qualche cosa, e lì vedi che si presenta l'incertezza. Sei incerto. Oppure il timore di che cosa penseranno di me. Questo causa uno sminuire quello che fai e quello che sei, e parte da me stesso del non credere in me, in quello che faccio. E quindi incide molto nella nostra vita. Ma il punto è: fai come Gesù. Facciamo come Gesù, imitiamo Gesù, quello che lui ha fatto, perché certamente lui ha vissuto la stessa cosa in questa occasione, e alcune cose ha fatto molto, ma molto semplice. Questo è il bello di vedere la vita pratica di Gesù, che può riversarsi dentro di noi e noi la possiamo applicare nella maniera più semplice. Non si è difeso. Non è andato a giustificarsi: ma sai, ma io, ma ho fatto, ma ho detto. Niente di tutto questo. Gesù non ha detto niente. Probabilmente ha pensato una sola cosa. Ha pensato, secondo me, ha pensato: peggio per voi. Peggio per voi. E infatti ha girato i tacchi e se n'è andato in altri luoghi. Questo mostra, è quello che noi dobbiamo prendere, che non era tutto il mondo di Gesù quelle quattro persone che lo hanno sminuito e non hanno creduto in lui. Aveva tutto un mondo davanti, non si è soffermato e non si è fatto schiacciare da quelle quattro parole, ma è andato oltre, è andato a prendere tutti quelli che avevano bisogno della sua salvezza, è andato oltre. Il tuo mondo non è solo quello dove vivi e quelle persone che ti stanno accanto e che semmai non credono in te, non vedono quello che tu fai. Hai molto di più a cui puoi dare le ricchezze che il Signore ti ha affidato. Vivilo in questa maniera molto semplice. Io lo so che non è semplicissimo una cosa è dire, una cosa è il fare, però incomincia con, o incominciamo con, l'esercitarci in questa cosa, nel senso, quando viviamo queste situazioni, invece di farci schiacciare da sentimenti e da pensieri che ci poi ci opprimono e ci fanno sentire quello che gli altri hanno detto di me, incominciamo a prendere l'atteggiamento che Gesù ha preso. Peggio per voi. Io vado oltre. Questa è la filosofia semplice di Gesù. È una filosofia di vita incredibile. Logicamente che non la applichiamo, e lo diremo più volte, dall'oggi al domani, ma è un esercitarsi in tutte le situazioni che viviamo, in tutto quello che noi diciamo con gli altri e gli altri viviamo con gli altri, è un esercizio. Hai molto di più. Ma ora passiamo a un'altra situazione, perché è bello vedere queste situazioni. Sono situazioni pratiche, non è un messaggio sublime da parte di Gesù, un messaggio impossibile da realizzare. No, lui l'ha fatto e lui sta tifando per te in quello che stai vivendo, in quello che stai pensando, nelle tentazioni che stai avendo. Sì, anche nelle tentazioni. Lui sta al tuo fianco e tifa per te affinché tu possa sperimentare la forza e la gioia del supporto che il Signore Gesù ci dà. Un altro episodio, sempre della vita di Gesù, lo leggiamo sempre nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 20-27, dal verso 39 al 44. Matteo 27, e qui è l'episodio di Gesù sulla croce, e quindi è una situazione di sofferenza, di dolore, possiamo anche identificare di malattia, ma di estrema sofferenza che noi nemmeno abbiamo mai provato. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: tu che distruggi, vedete come vieni preso, tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se sei tu il figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo, questo è anche forte, nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Cioè, chi era nella sua stessa posizione lo stava deridendo, lo stava insultando, lo stava prendendo in giro, lo stavano scansonando, tutti quanti. E Gesù era nella piena sofferenza. Come ha reagito Gesù a questa situazione? Beh, è incredibile, perché Gesù ha usato in questa situazione così gravosa, quando proprio stai soffrendo, quando non riesci nemmeno a sentire gli altri a causa della sofferenza che c'è dentro di te, nel tuo fisico e anche nel tuo cuore, dove non riesci nemmeno a pensare agli altri, Gesù ha usato come arma l'arma più potente che riesce a guarire tutte le ferite del cuore. È incredibile. Lì aveva bisogno, lui ha usato quest'arma per guarire se stesso, per non sentire quelle sofferenze che venivano sì dalla croce, ma ancor di più dalle parole degli altri. Quanto fanno male le parole degli altri, quanto incidono dentro di noi, nel nostro carattere e nei nostri atteggiamenti, quanto incidono profondamente da farci cambiare carattere e atteggiamento il più delle volte. Gesù ha usato l'arma più potente. E questo è anche il suggerimento per noi, è anche un suggerimento, è qualcosa che non fai come Gesù dal momento all'altro. Anche lui ha esercitato questo durante tutti gli episodi della sua vita che erano in un qualche modo brutti, erano dolorosi, erano veramente qualcosa che non vorresti mai avere. Ha usato il perdono. Infatti, sulla croce, in quel momento, Gesù ha detto: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Sfidiamoci, fratelli e sorelle, sfidati a usare, a scoprire la medicina più forte, l'unguento più addolcente per le nostre ferite interiori, che vanno guarite, perché altrimenti riemergono e riemergono. E non è che hai vissuto un episodio, dice, è passato e poi non lo vivi più, perché si presenterà in un'altra maniera e quegli stessi sentimenti e quegli stessi atteggiamenti riemergono e ti danno non nuova sofferenza, doppia sofferenza, quella di prima con i ricordi e quella che stai vivendo, e quindi la sofferenza molte volte aumenta. Usa il perdono. Ora, facile a dirsi, usa il perdono. Come fai a perdonare chi ti ha fatto, chi ti sta facendo del male? È un esercizio, non è dall'oggi a domani, da un momento all'altro. È qualcosa che devi mettere in moto nella tua vita, anche già partendo dalle piccole situazioni. Invece di stare a rimurginare dentro, semmai vendetta o modo di come fargliela pagare, oppure di come reagire o di come annullare l'altro, usa il perdono, rinnova te stesso con il perdono. Lì il perdono non è, mio personalissimo parere, non è che ha fatto del bene a quegli scribi e a quei farisei, non è che li ha ristabiliti o che si sono salvati dal perdono di Gesù. No, quel perdono che Gesù ha usato verso tutte quelle persone hanno dato a lui nuova forza e hanno dato a lui la forza per resistere, ma anche per vivere quelle situazioni in maniera incredibile. E infatti, dopo poco, proprio nei confronti dell'altro ladrone che diceva e si rivolgeva non tanto a Gesù, anche a Gesù, ma soprattutto all'altro, dice: tu che stai vivendo la stessa cosa e non credi e non vuoi credere, poi rivolgendosi a Gesù dice: se puoi pensa anche a me. E lì Gesù ha detto: oggi stesso tu sarai in paradiso con me. Non è incredibile? Vedi la potenza della redenzione nel perdono. Non desiderarlo, applicati a quello. Il perdono è qualcosa che va esercitato, non è qualcosa che ti investe, che ti viene addosso o che lo hai come dote nel tuo essere interiore. No, è un esercizio di sentimenti, è un esercizio di pensieri ed è un esercizio di atteggiamenti. È incredibile. E questo fa del bene a te. Nella Bibbia ci sono tanti esempi Quando noi rimurginiamo vendetta, si rivolge verso di noi. Ecco, un esempio per tutti, ce ne sono a centinaia di episodi e di personaggi nella Bibbia che hanno vissuto questa cosa. Absalom, il primogenito figlio del re Davide, a cui spettava di ereditare il regno e diventare re. Nella sua vita è successo un episodio incredibile, è successo qualcosa di terribile, di molto forte. Praticamente il suo fratellastro ha abusato di sua sorella. È qualcosa di tremendo, questo ti accende tutto. Puoi immaginare una cosa del genere? Forse nemmeno pensarla. Bene, Absalom da quel momento in poi non ha fatto altro che pensare, che progettare la vendetta di quel fatto. E tempo è passato. Tempo ci è voluto, preghiere ha dovuto fare al padre, non a Dio, per liberare la strada, non far vedere a nessuno che lui stava attuando e praticando una vendetta tremenda. E infatti ha ammazzato il fratello. Incredibile. Da lì in poi ha perso la sua famiglia, è dovuto fuggire. E quindi è anche cambiato interiormente. Quando il re gli ha permesso, Davide, di ritornare, lui era tutto cambiato, era un'altra persona, non appartenere. Lui guardava solo al potere, guardava solo a voler riuscire. E infatti lo ha fatto, ma poi alla fine ha perso la corona, ha perso la famiglia e ha perso la vita, ogni cosa. La vendetta, il suo frutto è questo. Il perdono, il suo frutto. Stai bene tu. Stai bene tu. E se sto bene io, stanno bene anche gli altri. Se sto bene io, sta bene anche il mondo intero. Ecco perché afferra questo atteggiamento di Gesù. Ecco perché lui fa il tifo per te, perché lo ha vissuto questo. Non è qualcosa che ti dà come un messaggio e come delle leggi o come 10 comandamenti. No, è qualcosa che lui ha vissuto e ti sta dicendo: io l'ho vissuto, so che cosa si prova dentro, so quello che causa dentro, ma fai come me. Esercitati a perdonare, esercitati ad accettare, vivi il perdono, è un'arma incredibile, non è qualcosa che ti si può insegnare, ti si può trasmettere, è qualcosa che devi incominciare a vivere tu, che devo incominciare a vivere io nei piccoli episodi, in tutte le situazioni. E sappi questo, che Gesù sta facendo il tifo per te. Questo vuol dire che sta al tuo fianco, che ti sta sostenendo e ti sta suggerendo anche come fare e come procedere. È qualcosa di sorprendente, di incredibile. L'ultimo episodio, forse per me o per tutti quanti noi, è uno dei peggiori. Lo leggiamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 22. Luca, capitolo 22, dal verso 39 al verso 44. E qui è un altro episodio che Gesù ha vissuto. Poi, uscito, andò come al solito. No, io credo che sto sbagliando a leggere, giusto? Tanto per... sì, va bene. Ridete lì sopra, tanto sono... E ho detto Luca capitolo 22, dal verso, no, credo che è quel, dal verso, Luca capitolo 20, dal verso 31, non dal verso 39, va bene. Simone, sì, l'episodio con l'Apostolo Pietro, che conosciamo tutti molto bene, ma ascoltate perché è importante vedere come lo ha vissuto Gesù, questo episodio di tradimento, che è la cosa più tremenda. Da parte di chi? Da parte di chi ti sta più vicino, da parte di chi ti è più a fianco, da parte di chi in cui tu credi e ti affidi. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Poi Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegate tre volte di abbia rinnegato tre volte di conoscermi. È incredibilmente terribile. Il tuo amico, il tuo fratello, la persona in cui hai investito, che credi, e arriva a tradirti. Da chi ti è più vicino? Gesù l'ha vissuto. Gesù lo ha vissuto. Certamente lo avrai vissuto, l'ho vissuto anch'io, lo abbiamo vissuto, vissuto tutti quanti noi, forse in piccole situazioni, ma forse anche in grandi e eclatanti situazioni come quella di Gesù, o forse ancora peggio sotto certi aspetti. Qual è la sensazione? Quali sono i sentimenti? Qual è, che cosa vivi? Almeno per me, il mondo ti crolla addosso, non hai più orientamento, non sai più cosa fare e dove andare. Perché? Perché chi in cui tu credevi ti ha tradito o è venuto meno o non ti ha sostenuto, anzi addirittura è andato pure contro, perdi il terreno sotto i piedi, ti senti sprofondare, entri in una bolla che ti fa sentire fuori dal mondo, e questo causa danni incredibili nel nostro cuore. Non ti fa credere più negli altri, diventi sospettoso per ogni piccola cosa, anche nelle cose più belle diventi tanto sospettoso. Come ha reagito Gesù? Ecco, qui è un consiglio pratico, reale. La prima cosa che Gesù ha fatto nei confronti di Pietro è stato? Esatto, pregare. Ha pregato per Pietro. Ha sostenuto Pietro nella preghiera. Prega per chi ti ha fatto, ti ha deluso o ti ha tradito, ti ha fatto del male. Inizia con la preghiera, lascia stare i pensieri che vanno a mille dentro di te, ma in quel momento fermati dovunque ti trovi, dovunque sei, e incomincia a pregare per l'altro. Infatti Gesù ha detto: ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. La seconda cosa che ha fatto, ha detto: quando sarai convertito, cioè quando cambierai, non se cambierai, ha continuato a credere in Pietro. Ha creduto prima e ha creduto anche quando Pietro lo ha tradito o lo avrebbe tradito da lì a poco. Ha continuato a credere in Pietro. Infatti non ha detto: se arrivi a convertirti, a cambiarti, questo è il nostro modo di parlare. Invece Gesù ha detto: quando ti converti, questa è una cosa certa, allora, ecco, il terzo aspetto è incredibile, è miracoloso, è anche qui un'arma potente. Che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha affidato a Pietro che lo aveva tradito, che lo aveva deluso, che lo aveva abbandonato, ha affidato la cosa a cui aveva più a cuore gli altri fratelli. Ha detto: prenditi cura di loro. È incredibile. Prova a fare questo. Cioè, io lo so che non è semplice parlarne, ma l'applicazione è qualcosa che va realizzato passo passo, lentamente, ma incomincia con il farlo, nelle piccole cose. C'è qualcuno che ti ha tradito? Inizia con il pregare. C'è qualcuno che ti ha deluso? Inizia con il continuare a credere in lui nonostante le evidenze. C'è qualcuno che ti ha tradito, ti ha deluso, ti ha amareggiato, ti ha ferito? Allora la sfida più grande è affidagli qualcosa da fare che sta a cuore a te. Non è come quando in ufficio qualcuno non si comporta bene e lo trasferiscono lontano. No, lo metti accanto della tua scrivania di direzione. È incredibile. Questo è quello che Gesù ha fatto. Ha detto: non mandarlo in Alaska a svolgere il suo compito. Affiancalo alla tua scrivania e vivi insieme quella stessa cosa. E questo ha del miracoloso, del incredibile, è incredibile, verrai completamente sorpreso di come cambierà il tuo atteggiamento, la tua vita, incomincerai a toccare e a vedere la pace di Gesù nella tua vita. Non più qualcosa come io vi do la pace, la mia pace, sì, teoria. Quante volte lo diciamo nel cuore nostro? Ad alta voce no, lo uso io qui. Ma vedrai la pratica di che cosa vuol dire sperimentare pace nei sentimenti, nei pensieri e anche nel modo di agire. E questo renderà gioiosa, tranquilla, serena la tua vita. Avrai la pace interiore. Ti fa toccare queste cose, Gesù. Gesù sta tifando per te, questo è il tifo di Gesù, ti sta continuamente al fianco, anche quando non lo senti, anche quando non lo vedi, non è così, tu lo avverti e lo senti, proprio in quelle situazioni ti rendi conto che lui è al tuo fianco, allora applicalo, fallo anche solo per provare e poi ci risentiamo. Amen. Signore ci benedica. Amen. Vogliamo pregare insieme? Gesù, io ti dico grazie, grazie, grazie. Sì, per tutti gli addestramenti, gli insegnamenti, ma soprattutto per la tua vita vissuta, che io posso ricopiare, che io posso ricalcare, o almeno tentare di farlo in alcune situazioni della mia vita. Ti ringrazio, Gesù, di questo meraviglioso esempio e forza che dai a me e a tutti i miei fratelli e sorelle che benedico in questo momento, dovunque si trovano, nel tuo nome, Gesù. Amen.